Riprendo? Riprendiamo? Ci allarghiamo un po', che dite? No, dobbiamo disturbare, siamo tutti in tavola, non stiamo sciocchezze. Per me non c'è problema, se vi volete unire... Ma forse devono parlare di altro. Fai una divisione, poi magari dopo che abbiamo finito la nostra possiamo unire. Pensavo che non dovevo fare. No, poi dopo possiamo unire. Allora ritorno qua. Siamo per unire, non per... Come questo tempo, io vicino a te. Certo, no, ma tu Franco sai che volevi dire... Io non ti presento, ragazzi, non ti conosco. Franco è sposo. No, io non ti conosco. Posso intervenire? Certo. Sposo, dai. Allora, io sono d'accordissimo quando guarda sia le titole sia da zebra. La proposta che faceva, Luca. Ciao Marta. Ciao. Proponevo. Alza un po' la voce. Sì. In più proponevo. Stanno le sei. Sulla nostra pagina. E loro mi dice che stanno già un altro tempo. Di invitare i cittadini a segnalarci quelle situazioni che magari rasentano, faccio io alcuni esempi, ad esempio la sezione municipale che sta in via San Giovanni e Paolo è ubicata su due piani. Scusa, mi ignoranza, dov'è San Giovanni e Paolo? Piazza Carlotti. È ubicata su due piani, io ci ho lavorato, che sono un ex dipendente del comune, ho lavorato in quella sede. Ci sta un ascensore e ci sta un ragazzo disabile sulla sedia che lavora là. Questo ragazzo non ha mai potuto salire ai piani superiori perché quell'ascensore a tutt'oggi, dal terremoto che è stata fatta quella, non è stata mai messa in funzione. In più ci sta un ufficio dell'ASL, medicina di base, a cui noi disabili spesso dobbiamo rivolgerci. In via Santa Teresa, ma c'è sta una, cioè è impossibile raggiungere, a me bene o male, diciamo che... Lei non fa la zia, cioè esiste, ma in le famose barriere le strutture pubbliche, le strutture del comune di Napoli, ci che mancano, e non solo, c'è sta l'altro che sta in Corso Garibaldi, dove stava l'ex ferrovia Napoli Portici, c'è un'altra sezione municipale che manca di ascensore per i disabili, cioè addirittura per fare dei certificati si deve chiedere un permesso alle assistenti sociali, queste devono scendere per prendere una firma perché manca l'ascensore. E dicevo, sollecitare i cittadini a farci conoscere questi luoghi, magari poi andarli a filmare e far vedere, cioè proprio queste cose che saltano agli occhi. Posso essere un quindi sei d'accordo sull'iniziativa di Lei, ma il discorso di lei mi è piaciuto, cioè il disabile deve essere più visibile, invece fra poco li prima proprio più, chi si stanno tutti quanti rintanando in casa, perciò non esco, ecco la visibilità che lei ha chiesto, lei direttamente l'ha chiesto, la visibilità, cioè il disabile si deve imporre a dire no, tu mi fai scendere. Come hanno fatto a chiamare la polizia a Roma? Con i gazebi itineranti che portano. Penso che questo può essere è utilissimo. E poi il foglietto, quello che tu dicevi, informativo, certo. Lo devi dare alle scuole dove stanno i ragazzi di Sabra, per gli insegnanti sostegni che così convergono qua. Chi voleva intervenire? Giulio, vogliamo stabilire già quando e come fare il gazebo? Avete qualche idea su dove cominciare? Io direi... Paola. Alza un po' la luce, Paola. Paola, un po' di voce. No. ci stiamo scambiando delle informazioni, no, ci stiamo cercando giù delle informazioni. Collegarmi a quello che diceva la collega, perché è una collega pure tra l'altro. Allora, per quanto riguarda la 104, diciamo, è stata completata con il DPR 2494, però è ancora esistente la 104, che si fa riferimento, sì, alla 104. Che è la legge 4. Esatto, è la legge 4. Poi c'è stato previsto per quanto riguarda il DSA, che è riferita alla legge 170 del 2010. DSA, e poi abbiamo l'ultima legge che si riferisce ai BES, che sarebbe ragazzi con bisogni educativi speciali. Allora, tutte queste riforme non hanno fatto nient'altro che, diciamo, ridurre, loro hanno usato altre voci per ridurre le disabilità e per far sì che togliere addirittura togliere il personale ATA il diritto che potevano aiutarli e mettere le cooperative che erano politicizzate, no, questo diciamo apertamente perché molto è sfacciato il discorso. No, no, ma proprio diciamo aperto, no, alunni che erano, che prima potevano essere riconosciuti come disabili, come con la legge 104, cioè, adesso vengono imputati nei famosi BES, ragazzi affetti da bisogni educativi o DSA direttamente. Però ecco, questo è il quadro, diciamo, della nuova riforma. Però non era nient'altro che poi avevano avuto degli orientamenti ministeriali, perché parlai proprio con una dottoressa, la dottoressa Comenale del Policlinico, uno anche del neuropsichiatra, cioè avevano avuto proprio un ordine ministeriale di modo che riducessero le 104 per fare cassa, no, per su questo, diciamo. Questo è anche un grosso problema, anche questo. Però Paolo, adesso noi diciamo che vogliamo. Ma volevo, stavi concludendo, Paolo, no, lo stavi dicendo. Diciamo questo quadro che può per certi aspetti limitante, utilizzare meglio le scuole della regione, per avere di materiale. La regione non ha potuto concedere un'attenzione alla mancanza di sostegno. E allora, diciamo, il mancato sostegno in classe che non fa mancare è stato proprio tangibile da un anno all'altro. Ma se hanno cambiato il rapporto, 1 a 4 non esiste più. D'accordo, però adesso con la nuova, diciamo, pare che dicono che con il nuovo organico stanno dicendo, però bisogna vedere, perché se no non si sa che ci dovrebbe essere un organico differente secondo la nuova, e quindi dobbiamo andare a vedere poi effettivamente in pratica cosa ci daranno. Però bisogna vedere il fondo. Pol, progetti organizzativi. Sì. Fateci il concorsone, lo nostro da questi Pol. Thank you. che vanno a formare, che vanno a formare, a sopperire. Ma tu me li insegni che i fondi vanno per assi, bisogna vedere quest'anno la politica quali assi va trovando. Prima erano i trasporti, poi erano l'alimentazione. Purtroppo bisogna vedere loro come giocano. Non è che pensano all'interesse, perché quando lui mi parlava prima del rapporto del disabile, tu devi vedere anche il rapporto che esiste, togliendo la 104, però aumentando politicamente, elettoralisticamente tutti i falsi invalidi. Allora se noi li vediamo che ogni tanto esce, bum bum bum, sono usciti tutti questi falsi invalidi, se noi conteggiamo un'analisi comparativa tra le 104 con accompagnamento che tu mi hai tolto e più i falsi invalidi che stanno aumentando, guarda che il rapporto è incidentale, incide. Comunque, scusate, cosa la devo dire? Ci sono dei comuni in Italia dove le politiche per la disabilità funzionano, quindi il problema è, non è cioè voglio dire, basterebbe prendere ad esempio questi comuni virtuosi dove i disabili, certo sono comuni più piccoli. No, ma anche il comune di Vicenza, che non è piccolo, eppure funziona bene. Un po' di voce, Paola. Bene con i tagli. Ciao Denisa, ciao Fabio. Prendete il desiderio. Praticamente una volta dopo la scuola, io partiamo quest'anno, lascio 4-5 ragazzi. La mia domanda era, dopo la scuola, il mondo del lavoro. Ragazzi, il mondo del lavoro. Che succede? Il mondo del lavoro. Una volta che lascio la scuola, generalmente se le generalmente quello che succede se li gestiscono le famiglie con grosse difficoltà. Sì. E le scuole fanno il borsino perché esiste l'autonomia. Fanno il borsino dell'impiego. Tu che stai all'alberghiero, io vengo dall'alberghiero che mo sta in pensione. Noi facevamo il borsino, proprio come poi. C'è una specie di banca delle ore dove tu il ragazzo lo mettevi a fare gli stage ancora continuativi e trovava posto di lavoro. Io stavo al Cavalcanti. Però adesso diciamo che dopo la scuola... Dipende dalla gestione dei dirigenti, perché Opon chi è fortunato viene inserito in qualche istituto particolarmente positivo, ce n'è qualcuno. Di quattro di impiego, dove c'è una figlia importante, e quindi diciamo laddove va bene, però generalmente se li devono gestire, quindi a scapito di mamme che potrebbero lavorare non possono più lavorare e con tutte le problematiche che hanno qua all'interno della vita. Sì, sì, ma noi lo prevedemmo. Come li inseriamo dopo? Questo è il problema anche degli altri. Come li inseriamo dopo? Beh, approfitto di Massimo. Ragazzi, fate perché io stando nella registrazione non posso fare il contemporaneo. Cerchiamo di essere operativi. A me, secondo me, sono qualche per noi, per qualche fotografia per noi per il tavolo. E la fate perché in registrazione non la posso fare. Sì, scusami Massimo. Stavo ascoltando con attenzione i colleghi. Perché tu pure tu sei, stai nel ramo scuola che stai insegnando. Bene, piaciuto. Solo che da sempre ho lavorato a Roma. Questo è il mio primo anno che sto a Napoli, quindi che noto delle differenze. Perché poi come diceva il signore... Non mi chiamare signore. Con l'autonomia scolastica. Già da una scuola a un'altra ci sono enorme differenze. Figuriamoci poi da una regione a una. Sicuramente ci sono delle cose da perfezionare nella normativa, ma la cosa che andrebbe fatto subito sono gli ispettori dove stanno, gli organi di controllo. perché, diciamocela tutta, la 517 del 77, che spiega che cos'è l'insegnante di sostegno, l'integrazione dei bambini all'interno della classe, non viene rispettata. Ma perché? Perché anche Paola, che è insegnante, me ne darà atto, si è pensato alla sanitarizzazione, quindi solo medici devono entrare nella scuola, tanto è vero, la medicina scolastica non ha fatto niente. Poi è entrata la psicologizzazione, tutto psicologi, OS, OP, capo evidente, i famosi OP e gli OSP. Poi guarda caso si diventa tutti filosofi. Ma la pedagogia, che è la cosa principale, è stata mandata a quel paese, qui a Venezia. Cioè, che è vero o no? La pedagogia nazionale oggi ce l'ha fatta. Però la stiamo buttando fuori la scuola. Un attimo, è. All'interno della scuola ci siamo ridotti. Scuola si parla fin troppo. Sono d'accordo. Perché nella 517, che è previsto che per questi bambini disabili viene garantito le attività interdisciplinari anche fuori dalle classi, dovrebbe essere garantito sempre l'assistenza sociosanitaria, l'assistenza per le autonomie, per le comunicazioni. Ovviamente a causa dei tagli come si sofferisce? Cioè delle ore se lo tiene l'insegnante di sostegno, quando non c'è l'insegnante di sostegno ci pensa l'assistente per le comunicazioni o materiale. Allora a questo punto, laddove allora signori miei, ma una sola persona da sola può fare l'integrazione? Cioè, per me è assurdo. Ovviamente un'altra problematica che noto è che mi sembra come se la 104 fa della disabilità come se fosse l'unica figura uguale da persona. Noi all'interno della scuola abbiamo diversi tipi di disabilità, disabilità che sono gestibili, magari anche, basta anche solamente l'insegnante di sostegno e si può operare benissimo in classe, ma ci sono figure molto più che richiedono un'assistenza molto più particolare, richiedono un'assistenza di personale sanitario. La soluzione, la questione è che non c'è, non bisogna cambiare la normativa, già nella 517 queste cose sono previste. Forse andrebbe ridefinita in maniera più severa, che deve essere più tangibile. Gli organi di controllo, che sollecitano i dirigenti scolastici a far rispettare la legge. Nella mia scuola, per esempio, ho notato, ma anche in altre scuole, sarà una sciocchezza, ma che dove c'è disabile le classi dovrebbero essere 20 alunni. Purtroppo il rapporto 1 a 4, diceva lui, non esiste più. Ragazzi, non stiamo scolarizzando, non... Non so, però lasciamo scorrere un po', è importante. Una alla volta, una alla volta, una alla volta. Una alla volta. Siamo un po' dispersi, non lo fa niente. Hai finito Massimo? Sì. Teresa vuoi parlare? Vai! Una alla volta. Sì, avvicinati un po'. Autogovernare. No, no, ci stiamo autogovernando. Buonasera. A 30 c'è una sera. Buonasera. Ciao. Non ti ho risposto a questo, abbiamo distrazione, messaggio da questo. Ci facciamo pure caldo. Ciao. Grazie, prendetevi qualche sera. Dovete fare una scelta, questo tavolo qua, quel tavolo là. Mi sono più bello, però, eh. Arrivare, ma ti asciò. Inizia da capo. Sì, perché è nel triangolo. Ah, là sta prendendo l'esempio. Sì, sì, sì. Pure la bandiera? Ma che bandiera è? Gesù 5 Stelle. No, non è 5 Stelle. L'associazione. La vogliamo sapere però, c'è la bandiera, vogliamo sapere le persone. Io sono giornalista. Benissimo, ma sediti qua. Se no. Sono male, sediti qua. Non ti ho risposto, grazie, non perché stava la registrazione. Quindi stai ancora tu, diciamo, con il messaggio. Scusami Teresa, ti ho interrotto, Non abbiamo... No, e dopo mi ha No, vai, stavi intervenendo, dici. Un po' di voce. La figura del cooperative. Cooperative enti locali, perché c'è la Napoli sociale. Sì, mio figlio viene assistito dalle cooperative. Che non hanno il personale adeguato e né qualificato. E quindi dico la mia scuola, faccio vedere, abbiamo una roba di materiale. Sì, sì, materiale, materiale. No. La figlia sta al secondo anno, molto docenza e c'è ancora. Con le ore, le ore. Supporto quando l'insegnante di sostegno, la legge prevede che sia abbinato un insegnante a due capi, e quando non esiste il ragionamento, se un disabile con certificazione lettera di comma 3 di giovane più grande ha bisogno della deroga più, è già il USR che attribuisce all'organico di mio insegnante per due anni già tra virgolette sta venendo meno ciò che peraltro stanno facendo i corsi a casa affinché praticamente i bambini possono avere la copertura totale delle ore, sono tutti vinti. Quindi se il ricorso al TAR, il giudice amministrativo, dà ragione a tutti questi corsi, significa che non si applica la legge, non è che non applica il giudice scolastico, non lo applica due sere, è il giudice scolastico regionale. Che altro volete dire? All'ordine dal ministero di non dare, però veramente non, però non dare troppo sulla scolarizzazione, sì, del discorso, che è uno dei tanti aspetti della disabilità, cioè, altrimenti diventa una specie di sindacato di famiglia, state chiesto che è corretto, però insomma, il centro è la, esatto, che il principale, sì, sì. No, per non importante, però ci stanno per non spostare poi troppo una alla volta. No, lo so, siete tutti colleghi, vi posso attirare le frecanti. Poi uno chiama l'altro. No, voi, il professore. No, io sono preziosa, no, loro, madre. Loro. Luca. No. Grazie. Piacere, sai. Io lo so. Sì, ora, dopo, grazie. Prima persona. Sì. Allora, come diceva la soluzione può essere la comunicazione. Cioè, comunicare ai genitori, loro dicono. Cioè, esiste il ricorso al TAR. Allora cerchiamo, meno noi che siamo simpatizzanti del movimento, di informare le famiglie sui loro diritti e vedere eventualmente, anche infatti questa è una cosa che volevo chiedere a Luca, se si poteva informare sui costi reali delle responsabilità. Perché noi già informiamo un genitore del suo diritto, quello che il figlio deve avere la copertura di Luca, sono anni. E il giudice amministrativo che l'accorda, perché la legge lo prevede, già abbiamo fatto tanto. Sì, però devi ricordarti che non è erga omnes, non è erga omnes, cioè per tutti, solo a quelli che fanno ricorso, quello è lo scrittore, quello è lo scrittore. Quello lo scrittore. Ragazzi, no. Un attimo, grazie. Vogliamo ascoltare tutti qua. Alzata di mano. No, io volevo partecipare come madre di un figlio grave. Sì, ora ti ascoltiamo. Io l'ho avuto dopo 2 anni, 18 anni mio figlio. Grazie, allora. Non interessa, perché noi soffriamo in prima persona. No, possiamo parlare proprio. E io c'ho voce, perché io sono in prima linea. Okay, io adesso mi vado a mettere in catene alla regione in settimana, Che noi quando fai, capito? Perché l'assistenza domiciliare, l'assistenza scolastica non l'abbiamo. Noi soffriamo con figli gravi. Hai capito? Io sto in prima linea, sono presidente della situazione. Cattivo, Tu non sei cattivo, però noi dobbiamo parlare con voce alta. Sì, è all'UCAM, grazie. No. Quale è il problema? ragazzi, con calma, con calma, tutti, con calma, tutti quanti, parliamo tutti quanti, perché gli argomenti sono interessanti. Grazie, con grazie. No, siccome è così, come ci vogliamo aggiungere? No, facciamo, perché non facciamo un attimo esporre alla fine. Ragazzi, un attimo, sentiamo un attimo, grazie. La chiamiamo grazie. Teresa? No, per carità. Io sono un'associazione. Io sono il presidente di un'associazione di Giuliano. Presente. Io sono l'associazione Oltre le Mura di Giuliano, grazie, in Campania. Che si presenta prima. Mi sono costituita parte civile con alcuni genitori dell'associazione, no? Che adesso è abbastanza ampia nel territorio. Oltre le Mura a Giuliano in Campania. Come ti chiami? Grazie. Grazie a Cola Iacolo. Nel senso, noi siamo sul territorio proprio per i diritti dell'ammalato che non abbiamo. Stiamo combattendo non soltanto con la regione, con il comune di appartenenza, che purtroppo il comune sono legati, hanno le mani legate perché non hanno fondi. Noi abbiamo un appuntamento prossimamente con il sindaco, ma lui mi dice: signori, non abbiamo soldi, e come devo fare? Mi devo legare vicino. Quindi lei sta giustificando il comune? Non giustifico il comune, il comune non giustifica il comune. Io sono, prima di essere un presidente dell'associazione, sono stata candidata nel Movimento 5 Stelle e sono un politico, ma è tutto. No, io non giustifico niente. È un attivista, sono un collega, Maria Lo Iacono. Siamo stati sul territorio, no, eravamo, io sono ancora, sono nel comune, quando vedo le cose che non vanno, in prima linea sempre. Io voglio i diritti non soltanto miei, dei soci e dei non soci dell'associazione sul territorio, che ci sono bambini che non hanno assistenza, bambini che non hanno proprio il giornaliere. Io ho un figlio, questo qua grave, che ha 18 anni, che pesa 80 kg, io non ce la faccio, però stamattina sono andata all'ospedale perché non riesco, io non lo potrò più alzare. Lo Stato non mi aiuta e allora agiremo di conseguenza. Lei lo sa perché mi conosce da anni sul territorio, questa voglio sentire pure voi insegnanti cosa avete da dirci, perché sinceramente, perché mio figlio a scuola sta per perdere tempo. Hai capito? Mi volete scrivere, come vogliamo fare? Mai con computer, mai a parlare. Dici grazie. No, nel senso, mio figlio ha 18 anni, no, all'elementare, che ha una paralisi agli arti superiori. I medici dell'ASL a Genova, Gasellini, Bari, Roma, dove è stato, no, mio figlio, gli davano informatica, a livello informatico, no. A Giuliano in Campania no, non ci sono addetti che insegnano mio figlio a livello informatico, che lui è intelligente, mio figlio è intelligente, una spina bifida, dovrebbe studiare soltanto, lui va bene, va al secondo anno di classico, va benissimo, però no, signora, abbiamo dei limiti noi da scuole, come avete dei limiti? Perché non abbiamo non abbiamo i fondi, non abbiamo per seguire questi ragazzi. E dove vado? A Genova? Dove vado? All'Artitale, a nord? Dove vado? La scuola si può attivare come ISS, Istituto Superiore, che mette anche l'informatica dentro. Mi sembra che questo lo stanno facendo tutti. Io porto il mio computer, ho sempre allora, portato. Chiedo scusa, no, siccome... basta, no, grazie. No, vogliamo prendere i nomi, perché mentre che stavamo andando a ruota libera, perché eravamo pochi di noi, man mano venendo le persone, allora... scrivetevi il nome, che così intervenite tutti, io tanto vi devo solo ripetere. Datemi i nominativi di chi vuole intervenire. Pino. Pino. Chi vuole? Scrivetevi. Questo ti possiamo dare come consiglio. Se vuoi intervenire ti vuoi iscrivere a parlare. Dove metti anche i servizi informali? Per esempio. Vuoi intervenire? No, io diciamo. Potete intervenire un attimo, aspetta un attimo. Grazie. Grazie a Paola Iacolo. Come si chiama? Benedetto Scuro. Aspetta, mi dai. Sta sulla pagina, vai sulla pagina. Nocchetti si chiama. Nocchetti, sì. Nocchetti. Adesso mi è venuto in mente pure a me che lo disse. Toni Nocchetti. Maria Nocchetti. C'è un Nocchetti della Rai. Mette a disposizione. Che sta nel campo della disabilità, diciamo. C'è il figlio che sta all'alberghiera a Via Giovenna. Me lo ascoltiamo Pino. Va bene, solo una cosa volevo dire, un attimo. No, un attimo, Luca, se vogliamo darci anche, se vogliamo darci pure, Luca, scusami, se vogliamo darci anche i tempi, perché se no incominciamo. Guarda, sono io tre, quindi per ora, sì, come, sì. Pino. Vai, Pino. Allora, oggi vorrei proporre, in realtà, questo è un progetto lavorativo. E riguarda l'arte fatta come disabili, con problemi di motore. Praticamente questo progetto nasce vari anni fa, perché praticamente questo progetto ha detto quando si candidò in regione, stiamo parlando. Loro erano interessati, poi non fu eletto e quindi il progetto è stato presentato e ripresentato al Comune di Napoli. Massa, gruppo del cartone, ha un nome questo progetto? Ora ce lo spiegherò. Di cosa si tratta? Praticamente voi siete a conoscenza che nelle scuole vengono ogni anno centinaia di migliaia di euro di frutti di computer. Sì, sì. Siete a conoscenza che ci sono varie discariche abusive sparse per le carreggiate autostradali. Voglia, sì. Non ne parlerà. Siete a conoscenza che solo tutto questo comporta una spesa non indifferente per lo smaltimento. Allora il progetto qual è? Praticamente mi presento un attimo, io faccio tante cose, soprattutto praticamente faccio impianti di sorveglianza, sono abilitato a fare la sorveglianza per le città, per tutto. Che cosa prevede? Prevede pacchetti di persone che guardano tutto il territorio comunale, privato, cittadino, eccetera, scuole, strade, persone che guardano che fanno la sorveglianza sia nelle scuole che sulle strade, in remoto. Cioè, praticamente persone, persone alla volta, abbiamo stimato circa 200 persone per città, in posto di lavoro da lì. Praticamente questo è un progetto che potrebbe dare lavoro sia alle persone normali che alle persone disabili, perché praticamente un altro che stare dietro un computer e guardare il posto da lì. Ogni sede, 5 persone, guarderebbe circa 20 postazioni da lì. Questo progetto già è... cioè montare delle videocamere e poi pagare gli studenti che sono davanti. È una novità per chi non gli strumenti. Questo non ha come adesso è ancora ancora non esiste. Infatti abbiamo una scuola, no, perché non hanno la tecnologia ancora, allora perché non si interessano, perché abbiamo da lì molto bene. Progetto di come la io con la montagna che ho all'epoca, cosa fa? Fa questo progetto. Questa cosa qua si può portare alla funzione di e sono posti di lavoro, sia per chi sono posti come soldi, spazio, e sia per chi sta la persone, sia nella Fabio, grazie. Buona luce Fabio, Fabio, ma di voce, ma la mia. O ti avvicini tu perché devi assomigliare di più alla nostra Grazia. Hai capito? C'ha questa bella voce squillante, senza però tutte le leggi, che le può fare solo lei che ci piace. Ma a me non la faccio. Cioè, ho avuto il problema con mio padre, il problema dei piccoli. Sono persone con varie patologie, che può essere diabetici, persone che sono con colesterolo, ipertensione, che portano questo tipo di problema. Questo problema che era la disabilità momentanea, però momentanea è uno scoperto, che non è momentaneo di un mese, può essere un anno, può essere due, può essere tre, può essere cinque, può essere tutta la vita. Riconoscere questa disabilità gruppo scoperto è una cosa molto semplice. Le persone che vengono incontro a questo problema hanno conto grossi esami che devono fare, controlli, spese varie, che una persona pensionata come mio padre, che fino a poteva fare qualcosina per portare avanti la famiglia, adesso non può fare con niente perché comunque non ha un braccio, diciamo, sono tenuti un pochino abbandonati un po' da tutto. Diciamo, se non c'è l'aiuto dei familiari, queste persone stanno buttate in un letto. Tipo Alzheimer. Esatto. E questo volevo segnalare con un caso di disabilità che comunque non ho mai sentito, che se ne è parlato come te. Angelo. Niente, allora, come io mi ripeterò sempre, qua il primo problema che abbiamo è quello della legalità, quindi che il diritto non è un favore. Quindi se noi entriamo nell'ottica che il diritto non è un favore, allora andremo lì a scardinare tutto. Perché le leggi ci sono quelle... Allora dobbiamo mettere, pensando pure al papà di Fabio, eccetera, bisogna fare in modo che le strutture anche sanitarie funzionino, quindi noi dobbiamo andare a fare fiato sul collo su quelli, dobbiamo fare in modo che chi stanno faticando, che ci stanno i medici chiusi nelle stanze lì e non, non visitano, le carte non si muovono, stanno fermi, stanno fermi, e questo è il vero problema. Non c'è niente qua, noi stiamo tutti quanti a nord, i medici, mio figlio è stato operato un mese fa, nord, sì. Allora, signora, mi riferisco. Gennaro, lo vedi sulla pagina, signora, Gardini e Milano. Signora, però se vuole parlare lei a posto, no, facciamo prima. No, allora, qua c'è niente. No, e poi dopo le diamo pure la parola. Dicevo, per lei sta parlando di un'altra problematica ancora. Qui abbiamo 37 interventi. E questa è ancora un'altra problematica, quindi lei si deve spostare. Ma il problema è che la struttura proprio sanitaria, quelle ASL qua, non funzionano. Le pratiche del riconoscimento dei diversamente abili non avviene, è lento, la giustizia non funziona, e quindi è qui che dobbiamo agire. Se andiamo ad agire su questo, facciamo lavorare queste persone nelle strutture, allora sì, risolviamo il problema. È proprio questo, e questo è il problema, è della legalità, quindi fare applicare le regole. Per rispondere a lei, per rispondere a lui, quindi che, come possiamo fare se non fare fiato sul collo, che poi diciamo è lo stile del 5 Stelle, quindi ci dobbiamo organizzare bene, in regione dobbiamo vedere che fondi abbiamo, le varie ASL come funzionano, se funziona, ognuno ci denuncerà, denunceremo, vedremo in che modo farlo e vedremo che un disabile quanto tempo deve aspettare per avere, per essere riconosciuto il diritto allo studio, la 104, quindi la gratuità e così via. Anche il BES se viene riconosciuto. Questo è proprio un problema di legalità. Se no... Esatto, e quindi qua dobbiamo... Allora noi dobbiamo uscire con un fatto pratico, perché qua di problemi, se noi prendiamo, facciamo un elenco, i problemi non finiscono mai. Però deve uscire un documento pratico dove noi dobbiamo andare, ecco, allora il nostro gazebo itinerante, la nostra lotta che deve essere il presidio, devono arrivare, noi dobbiamo andare sotto la regione, non funziona quella parte lì, andremo tutti lì col gazebo itinerante, le mamme, i diversamente abili che possono venire, tutte le associazioni. Le mamme non fanno niente. Sì, tutti quelli, sto dicendo tutti, genitori, mamme, associazione, padre, figli e tutti, dirigenti, chi vuole venire a scuola, e dobbiamo andare lì a fare pressione, a sensibilizzare, se no non ne usciamo, rimaniamo sempre ognuno nel suo comportamento stagno, limitare non si farà nulla, e bisogna anche rischiare, metterci la faccia. Questo è il mio. Io ho visto un desiderio, capire, dato che non ti conosco. Dimmi. Capire... Io sono venuta a questa riunione stasera perché io conosco Gennaro sulla pagina, ma di persona, però di forse questo Mario voleva dire se ci racconti la tua storia. La mia storia è bruttissima, perché mio figlio stasera deve evacuare, no? E io deve sedersi sul gabinetto, io devo togliergli io la cacca, no, mio figlio? Sai perché? Perché una spina più me lo viene in coscienza. E l'ASLA, la sanità, non ti dà un peristin, un apparecchio. Perché dice nel territorio giulianese ce ne sono due malati, sono di Giuliano, ci sono due malati come una lotta te. Su questo andiamo a lotte, no, lotte. Noi, io noi. Già ho fatto lotte. Noi insieme, sola. Non solo tu. Fa la forza. Noi. Io sono pronto ad andare a fare. per fare guardare questo ragazzino sul gabinetto. C'è la figura del loro, come ti chiami tu? Mio marito. Io volevo sapere un'altra cosa, poi tu devi interpretare. Dimmi. Volevo sapere come hai costruito questa associazione. Con tante mamme di cui fa parte anche lui, Roberto. Orte le mura. Beh, anche l'aiuto. Orte le mura. Abbiamo avuto anche l'aiuto di attivisti di Giuliano. Attivisti di Giuliano abbiamo avuto. All'inizio. Com'è? Sì, una pagina, c'è una pagina, c'è un sito, sì. Facciamo una cosa, convergiamo sempre a lui, in modo che ci troviamo tutti quanti su di lui. Io con Totonno così ho fatto. Tramite Totonno mi sono. Ma noi teniamo questa. Esatto. Noi abbiamo creato questa pagina Facebook semplice sulla disabilità. Che una pagina che non è legata, diciamo, né a un'etichetta politica e né diciamo ad una possono partecipare tutti qua, come qua stasera, cioè qui possono, è libero, non è un tavolo, una riunione del Movimento 5 Stelle, cioè questo è un tavolo, una riunione dove si siedono tutti con tranquillità. Chi ci può dare una mano? Associazioni, utenti, noi che siamo cittadini, certo. Normali. Stasera metti subito il link di questa pagina in modo che noi veniamo da te, come ho fatto io stasera, cioè, grazie per esempio, che metti la sua, la pagina Facebook si chiama Disabilità e Dintorni Campania. E questa pagina, diciamo, Facebook. Ma voi se avete difficoltà nel trovarla, basta che diciamo. Cioè, no, uno per voi, state parlando due contemporanei a me, uno per voi. Basta che trovate, diciamo, scusami Teresa, no, voglio dire, se avete difficoltà nel trovare la pagina Facebook che poi. E dovrebbe essere semplice perché è unica, basta che venite sulla mia pagina del mio nome e cognome, Gennaro Giuliano, da là o mi scrivete a me se avete una difficoltà, io vi do comunque il link, non ci sono problemi, insomma. È facilmente raggiungibile, insomma, perché è l'unica come pagina che teniamo. Scusami Teresa. Non è Carmelo, non c'era, che non doveva venire, però insomma, infatti, la saluto e ho capito, magari ci starà vedendo, magari in streaming la salutiamo. Teresa, chi deve piano piano sociale, insegnanti, cittadini, cittadinanza attiva.